Cara Biba, ti scrivo questa ennesima lettera, ma dubito che tu mi possa rispondere. Comunque la speranza è l'ultima ancora a cui mi posso attaccare, e ci riproverò ancora. Nel paese dove tu sei andata, in quel pomeriggio di un grigio novembre, le poste funzionano sicuramente, altrimenti. È questa la mia unica certezza. Cara bambina mia, ogni attimo che il mio cuore batte, il pensiero segue il suo ritmo, con l'amore infinito che avrò sempre per te, e quando esso si fermerà e in un sogno non avrai risposto alla mia missiva, io sarò di nuovo con te, e non occorrerà che ti scriva più. Ti mando un bacio che volerà nel cielo, come una farfalla, uguale a quelle che disegnavi. Infinitamente sempre, il tuo babbo, Marco.